amarte y adorarte. Voglio contemplare il volto tuo, celebrarti, glorificare te. Parola in ogni tempo innalzare te, voglio proclamar la tua giustizia, in ogni tempo aver fede in te, star vicino a te è ciò che voglio, averti accanto a me è tutto per me, tu sei qui. Tua presenza, tu sei qui, cresce l'amore dentro me, tu sei qui, riempi il mio cuore la tua presenza, tu sei Signore, magnificarti, adorare te. Voglio contemplare il volto tuo, celebrarti, glorificare te. Voglio proclamar la tua parola, in ogni tempo innalzare te. Voglio proclamar la tua giustizia, in ogni tempo aver fede in te. Star vicino a te è ciò che voglio, averti accanto a me è tutto per me. Tu sei qui, riempi il mio cuore la tua presenza, tu sei qui, è tutto per me, tu sei qui.